America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, vorrei partire subito con un documento alquanto straordinario di cui parleremo poi più avanti nella trasmissione. Sentiamolo, è Mel Gibson che si infuria con la fidanzata. You understand me? And I will. Listen to what you do to me. I didn't do anything to you. Ecco, avete sentito un piccolo assaggio di quello che è stato, di quello che è diventato il rapporto fra queste due persone, questa coppia che sembrava felice e che ovviamente ormai non lo è più. Ne parleremo, come vi dicevo, più tardi. Vorrei partire con quella che diventa, secondo me, la notizia della giornata, e cioè l'accordo in Senato per approvare la riforma del sistema finanziario. L'accordo è stato raggiunto nella notte di ieri, ci saranno tre repubblicani che voteranno con la proposta di legge democratica e dunque il passaggio al Senato è di fatto assicurato entro questa settimana. Visto che alla Camera il progetto di legge è già passato, a questo punto non resterà che la firma del presidente Barack Obama. Excuse me, it's not going to be the Senate bill, as you know, it's in conference committee now. It's going to come out, the bill is going to be a compromise. Che cosa è successo? Beh, è successo che un paio di senatori repubblicani che avevano espresso riserve sul pacchetto così come era stato presentato dalla Camera avevano chiesto e poi ottenuto delle variazioni, delle modifiche. Per esempio, il senatore Scott Brown, la bestia nera dei democratici, è riuscito a ottenere che alcune società di gestione dei fondi, per esempio, non casualmente, la State Street Corp e la Fidelity Investment, che sono due importanti finanziarie del Massachusetts, tra l'altro la State Street Corp ha comprato recentemente le attività di clearing, di gestione della banca Intesa in Italia, ma questa era una parentesi. Dicevo, queste due istituzioni finanziarie potranno operare in modo più agevole, invece di essere anche loro bandite come altre, nel settore dei mutual fund. Ci saranno regole meno restrittive di quelle pianificate all'inizio. Poi Susan Collins, repubblicana, è riuscita a far eliminare una tassa sulle grandi banche e sui fondi hedge che avrebbe dovuto pagare potenzialmente per i costi impliciti in questo progetto, costi da calcolarsi ad esempio nella costituzione di nuove agenzie federali, nuovo personale, nuove misure di sorveglianza. La tassa complessiva avrebbe dovuto essere di circa 19 miliardi di dollari per le tasse, non ci sarà più. Terzo, la Olympia Snow, repubblicana, è riuscita a introdurre un emendamento che limita il tipo di capitale che le grandi banche possono avere in riserva, quindi una maggiore flessibilità dal punto di vista della contabilizzazione del capitale di queste banche. Come sempre succede quando si arriva al dunque, il compromesso, le modifiche diventano essenziali, sono state apportate ieri la decisione finale di Scott Brown che ha detto: se andremo al voto, io voterò a favore di questo progetto. Una marcia nuziale non per Mel Gibson e per la sua ex compagna Oksana Grigorieva, che forse avrebbe voluto anche sposarlo, ma per una coppia che è convolata a giuste nozze proprio questo fine settimana. Un matrimonio simbolico sotto molti punti di vista fra Huma Abedin e Anthony Weiner. Chi sono? Beh, Huma Abedin è l'assistente di Hillary Clinton. È stata una persona chiave durante la campagna elettorale che Hillary fece contro Barack Obama. Divenne allora un personaggio di straordinaria notorietà perché giovanissima aveva assunto una posizione di grande potere, sconosciuta peraltro, non si capiva da dove fosse spuntata. La Abedin si è sposata con Anthony Weiner, un deputato dello stato di New York molto virile e anche molto ricco, perché decise di non scendere in campo contro il sindaco Michael Bloomberg e risparmiò così circa 4 miliardi di dollari in campagna elettorale. La sua rielezione adesso a novembre è considerata certa. Una storia dunque a lieto fine, ma la curiosità in questo caso è un'altra, è che il signor Wiener, anzi l'onorevole Wiener è di religione ebraica, mentre Huma Abedin è di religione islamica. Chi ha celebrato le nozze? Bill Clinton in persona. Devo anche dire che l'umore e l'atmosfera per questo matrimonio è completamente diversa da quello che non c'è stato invece appunto fra Mel Gibson e la sua fidanzata russa. Sentiamo. So you're not lying to me. I've never had. Yes, you just did. You said they weren't. You lied. Ecco, nella prima parte che vi ho fatto sentire, Mel Gibson si scatenava contro la sua fidanzata dicendo: mi hai mentito, sei una bugiarda, non mi hai detto che avevi le tette finte. Lei si difende, dice: non è vero. Io no, a parte che non abbiamo mai discusso, ma per me quello non è mai stato un segreto. Ma comunque sia, Mel Gibson, che ha lasciato la moglie per questa donna, per una relazione che poi è durata non molto a lungo, giusto il tempo di fare una bambina, è letteralmente impazzito. Lo avete sentito dalla voce, insomma, questo diventa un dramma da film. Mel Gibson che interpreta se stesso, e devo dire alla fine l'attore ne esce ovviamente malissimo. Si confermano le sue uscite politically incorrect. Aggredisce Mel Gibson questa donna con insulti pesanti, minaccia di bruciarle la casa. Ecco, il problema per lui è che questa signorina, che ovviamente non sappiamo quanto sia innocente o in malafede, direi innocente, non lo è di sicuro, ha registrato tutto e ha distribuito queste registrazioni ai siti internet. Ecco, andiamo avanti con un'altra sua registrazione. E dunque Mel Gibson era stato sposato con Robin Gibson. Il suo matrimonio era considerato, lui cattolico, osservante, straordinariamente osservante, uno dei più inossidabili di Hollywood. Eppure dopo 30 anni insieme, 7 figli, la moglie alla fine aveva chiesto lei il divorzio. Però Gibson aveva raccontato che insomma già dal 2006 le cose non funzionavano. Dunque l'attore era alquanto vulnerabile quando ha incontrato Oksana Grigorieva, una modella russa. E devo dire che forse gli americani gli avrebbero perdonato alcune delle sue uscite, perché chissà che cosa gli aveva combinato questa donna che lui accusava di essere provocatoria, di avere avventure con altri uomini e così via, così via. Ma il problema è che a un certo punto Gibson ha lanciato un epiteto di tipo razzista. Se verrai aggredita e violentata da un gruppo di neri, non lamentarti. Ecco, questa è la frase che ha scatenato letteralmente l'America, perché il razzismo in America non è mai andato di moda, direi negli ultimi 20-30 anni, soprattutto ora che abbiamo un presidente nero alla Casa Bianca. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Alcuni di voi avranno visto, conosceranno il YMCA, se non altro per una canzone che l'aveva popolarizzato molto. YMCA sta per Young Men Christian Association, sono una serie di ostelli distribuiti in tutta America e anche a livello internazionale, dove si può alloggiare a basso costo, un vero e proprio mito americano. Ebbene, che cosa è successo? Che ieri la YMCA ha annunciato di aver cambiato il suo nome. Si chiamerà semplicemente Y, che era un po' il nomignolo con cui i giovani la chiamavano già da qualche tempo. Dunque YMCA cambia in Y, e dedichiamo a questo passaggio di nome, a questa operazione di marketing, la canzone del giorno dei Village People, appunto YMCA. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.